Il sabato del villaggio. E senza indugi, alle 17:06 minuti e 24 secondi diamo la linea a Radio Tube. Radio Tube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. No, ma non avete idea di come sono contenta. Perché? C'è la sigla con le campanelle. Sì, infatti stavo notando. No, che bello. Paolo in regia pronti. Non me l'aveva detto. Non me l'avevi detto che c'era la sigla con le campanelle. Ma scusami, al sabato contenta? Del villaggio non ve l'hanno fatta? No, adesso vado a chiedere. Sì, vado subito. Voglio subito le campanelle. Una cosa gravissima, solo per Radio Tube. La sigla con le campanelle natalizie. No, ma sono qui tutta emozionata. Dai tu gli account di Twitter che sì, non ci riesco. Sì, allora, gli account di Twitter, e Twitter oggi è particolarmente importante, dopo capirete sì. Perché, sono @MartaCagnola, @DiBellasio, poi su Twitter si usano gli hashtag, che è #RadioTube, invece quello del sabato del villaggio ISDV. L'ho imparato benissimo alla 14ª puntata della 3ª edizione. Bene, sì, bravo. Siamo la 14ª. No, io sono ancora qua tutta emozionata per le campanelle. Allora, hai messo anche gli occhiali rossi natalizi. Sì, perché mi sono seduta sugli altri occhiali. Stai bene. Sì, entusiasmo fuori luogo, qualcuno scrive. Non è vero, sono per veramente cosa? Contenta delle mie campanelle. Ah, pensavo degli occhiali. No, delle mie campanelle. Ma poi l'entusiasmo non è mai fuori con luogo. Con questi occhiali lascia perdere, meno male che siamo alla radio, che non solo non mi si vedono, ma non devo guardare però io. Però siamo in diretta, potremmo fare Periscope. Però no, ne parleremo dopo, ma non facciamo anche un Periscope. Parliamo di una cosa sì, che a te piace molto. Di un'ingiustizia, quasi uno scudetto della Juve. No, allora, non parlare male del mio ospite del sabato del villaggio, perché è stato con noi alle 16. Ma figurati, sono stata contentissima, è tanto carino. Vabbè, facciamo una cosa, ti faccio risentire un pezzettino del suo singolo, perché così capisci perché lui e nessun altro ha vinto X Factor. Restante nel luogo dei miei natali, delle mie battaglie normali, oltre le barche, oltre i pescatori, ritrovo te, che hai sempre voglia di andare. Bellissimo questo pezzo di Giosada, io è tutto il giorno che me lo riascolto. L'abbiamo avuto ospite nel sabato del villaggio. No, ma il podcast, pezzo non è neanche 24.it. Sì, non è neanche male, perché poi ricorda Pierangelo Bertoli, faceva ballate di questo tipo molti anni fa. Ma però voglio dire, gli Urban Strangers, ma stiamo scherzando? Lo so che tu eri un fan degli Urban Strangers. Ma un gradino sopra, no. Uno scudetto della Juve di Moggi era più regolare. No, io sono molto contenta per Giosada, anche perché davvero questo pezzo era bellissimo. Tante comunque cose sono successe. Ma lei già detto che X Factor è stata la trasmissione più social, tweet, leggo dal Corriere di oggi, 400.000 tweet durante la finale. E poi 70% la quota di conversazioni su Twitter. Poi è stato anche mondiale, trend topic. Sì, è stato trend topic, in cima. Ma in cima ai trend topic mondiali. Molto bravi, contenta. Soprattutto gli Urban Stranger. Ma non ce la faremo mai, no? Non ce la faremo Giosada. Mai. Ma questa settimana sono successe tante Rocco cose. Ho votato 10 volte, tipo. Dimmi. Hai fatto. Ma Rocco chi ha votato? Gli ascoltatori che non lo sapessero, è il bimbo di Daniele. Sì, chi ha votato tante volte per gli Urban Stranger. Poi aveva votato Eleonora, te la ricordi? Mi ricordo benissimo. Sì, che lui simpatico, però anche Eleonora, diciamo, non è andata benissimo. Se l'è presa quasi come. Dai, voltiamo pagina. Allora, se l'è presa. No, voglio passare al vestito. Voglio parlare del vestito. Ah, prima questa il vestito e poi questa settimana voglio parlare di un vestito che ha dominato, ha diviso i cuori, i social, ha diviso i cuori. Io ero alla Scala lunedì sera, però, lo sapete, no, chissà ragazzi, come rivestita. Ma no, io sono una cronista di quelle cronista. Proprio brutte e cattive, sì. Quindi consumare le suole alla Scala, sì. E beh, ma sai che non sai, ma consumare, guarda che è così, il tacco 12 alla ma Scala. Che tacco 12, eleganza con tacco basso perché tocca correre, ma lavoravi. No, lavoravo, però io il vestito della signora Sant'Anche l'ho visto subito ed era molto bello. Molto bello, certo. Molto bello. Un perché po'... sapevi chi l'aveva fatto. No, allora, sai che secondo... Allora, sentiamo subito il commento, sì, di Maurizio, sentiamo. Crozza, come ha parlato Maurizio Crozza del vestito di Daniela Sant'Anche. Alla Scala. Giova, la paura era così evidente che anche Daniela Sant'Anche, per il timore di attentati, si è presentata camuffata da albero di Natale. Però pare che nella notte l'ISIS abbia rivendicato la scelta del vestito della Sant'Anche. Comunque... No, ma sì, non è vero. Ma non era tanto il vestito, era il pellicciotto, no, che ha un po' attirato l'attenzione verde. Ma tu volevi sottolineare? No, lo so, no, che dillo, adesso tu dillo. Adesso lo devi dire. Mi tra le tante colpe di Vimercate. Non è vero, a colpe meriti, non è solo la mia. Tra le tante cose famose, oltre a Marta Cagnola, che accadono a Vimercate. Ma stilista che ha fatto il vestito della Sant'Anche di Vimercate. Perché c'è uno stilista si che chiama lo ha fatto. Diego Dossola, sì, però lui ha fatto il vestito. Sì. Quando io ho visto il vestito, ho detto: il vestito è bello, ma cosa c'entra la pelliccia? Che è dello stesso colore? È quello il problema. Lui ha fatto il vestito, ma non la pelliccia. L'ha scelto lei, o no, lui, no, o Sallusti. Ha anche un po' preso le distanze dalla dal pelliccia. Pellicciotto, meno male. Sì, sì, sì, perché lui giustamente ha detto: la pelliccia la dovevi mettere. Ma sì, ma poi la dovevi mettere o a contrasto, ma non ton sur ton, no, con quel verde lì che non c'entrava lì, niente. Quel verde lì. No. Quindi lo stilista di Vimercate ha preso le distanze dal pelliccio. No, secondo Crozza. Va bene. Ma siccome allora, cambi la scaletta, ora di che parliamo? No, non cambio la scaletta. Semplicemente volevo metti passare a un'altra signora. A un'altra signora dopo, sì, Daniela Sant'Anche, sì. Visto che tra poco parleremo di molto America, di America, Made in America. C'è qualcuno che si è lanciato in una performance musicale, sì, molto particolare. Una ne performance ascoltiamo rap. Un come si dirà? Rap. Eccola qua. Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow, and everyone could really make their dream true. Hey kid, listening in Michigan, that could be you. Well, a dream is just a dream unless you go, huh? Sai chi è questa rapper? Molto molto molto dura. Lui è Fedez. No, che non è Fedez. Questa dobbiamo rapper difendere dalle ire di Aldo Grasso. È FLOTUS. Cioè? È ah, la sì, first è lady of the United States. FLOTUS. FLOTUS, la first lady of the United States, è Michelle Obama. Sì, che ha cantato per quale causa? Allora, Michelle Obama si è data al rap per sostenere la sua campagna, sostenere le sue campagne, è pronta a tutto. Questa sì. Questo era il video Go to College, parte della campagna Better Make Room, fare spazio, rivolta alla cosiddetta generazione Z, 14-19 anni, cioè quella delle sue, ragazzine. Z, sì. Sì, le sue ragazzine, Malia e Sasha, che hanno già 17-14 anni. Grandi. Di fatto, questo rap, questa campagna, vogliono convincere i ragazzi a non lasciare gli studi dopo la scuola superiore, dopo la scuola secondaria. Quindi, go to college, you should go to college, dovresti andare al college. E lei, sì, beh, brava. Bella, troppe campagne, Michelle. Fa tantissime, però brava. Ma tante parliamo campagne, di America, ma tra poco dopo parliamo di quella campagnona lì, di quei grandi. Perché l'uomo americano del momento, però, è un altro. Sì. Ne parliamo di Donald Trump dopo. Tra poco parleremo di Donald Trump e dei suoi capelli. Lo facciamo. Anche i capelli. Dai, perché no? È impossibile non parlarne. Vabbè, me. Dai. Lo dici tu, ma sei alla radio, ma non dirlo che nessuno vede. Che Si intuisce. Si sente il rumore dei capelli che cadono anche alla radio. No, è che il problema è che la linea della cuffia schiaccia. Sì, però la cuffia, se la metto un po' avanti, nasconde. Esatto, quindi dovresti metterla più avanti perché si arretra la linea dei capelli e la cuffia rimane lì. Sei di una cattiveria da 3 o 4 puntate. Mandiamo il traffico così. 17:15 è il momento del traffico. Salviamo Bellasio. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Radio Tube. E la la verità è che da un po' di tempo bisognerebbe vivere su due fusi orari per seguire, cioè, quello che succede in Europa, ma anche quello che succede in America. Non so quando bisogna. 30 anni così. Beh, no, ma soprattutto nelle campagne elettorali, tutto quello che succede di importante succede di notte. Claro, se ci si sveglia la mattina, ci sono i social network pieni di notizie, sì, le TV piene. Uno dovrebbe seguire la notte e seguire la mattina. Poi c'è il fuso orario dei giornalisti italiani che arrivano sui social network all'ora in cui si svegliano. È vero, e inondano. Oppure inondano soltanto sui social network, perché dovremmo averne uno, no? Inondano, ma invece lui è in spiegare onda le mie in terribili. Era una battuta cattiveri. Terribile. Ce l'abbiamo in diretta dagli Stati Uniti, sì, beato lui dall'altra parte dell'oceano. A questo punto gli direi buongiorno, perché per noi ormai è quasi sera, ma buongiorno a Christian Rocca. Ciao Christian. Ciao e buonasera a voi. Eccolo qua. Allora, direttore di Il, perché lui in fondo, sì, ha anticipato Time, lo dico io perché tanto l'avrebbe detto lui. Ah, perché ha fatto una certa copertina. Sì, ma in due sensi l'ha anticipato. Sì. Primo senso, perché comunque in una delle quattro copertine dell'edizione speciale ultima di Il c'era Donald Trump. E poi, certo, perché l'illustrazione, Christian? Ma dai, non sono così, non posso dire una cosa del genere, però visto che me la stai tirando fuori, te lo dico. No, perché non ti citi mai volta, neanche sui social. Per una volta Time, nell'aver decretato la persona dell'anno, ha scelto Angela Merkel, invece che la solita fotografia di Platone o di altri grandi fotografi, così ha fatto un'illustrazione, un faccione di Angela Merkel illustrato da un illustratore, cosa che avevamo fatto anche noi, ma è ovviamente un puro caso. Beh, simile, caso e fiuto. Le illustrazioni erano più belle. Sì, no, ma tu però hai premiato Trump. No, io non ho premiato nessuno, io ho scelto 12 personaggi in questo momento rilevanti negli Stati Uniti, in questo preciso momento. Mio malgrado uno è ovviamente Donald Trump, e quindi gli ho dedicato un ritratto, un bellissimo articolo di Paul Berman che spiega molto bene il fenomeno Trump, e nel giro delle quattro copertine che abbiamo fatto, uno dei quattro personaggi è lui, gli altri sono Hillary Clinton, Jennifer Lawrence e Taylor Swift, la mia preferita. Però qui c'è un problema, ragazzi, è un problema grosso, perché qua Donald Trump vuole... Ci vuole vietare. Vuole chiudere internet, eccolo qua. And we have to do something, we have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what's happening. We have to talk to them, maybe in certain areas, closing that internet up in some way. Somebody will say, oh, freedom of speech. These are foolish people. We have a lot of foolish people. We have a lot of foolish people. We've got to maybe do something with the internet because they are. Ragazzi, bisogna fare qualcosa con questo internet, perché qua sì, certo, troppa libertà di parola. Vabbè, la libertà, sì, vabbè, sta libertà. Però. Che tra l'altro senza la libertà di parola lui metà delle cose non potrebbe dirle. Beh, un'uscita straordinaria, Christian. Cosa diciamo di questo chiudere internet? Se fate una ricerca sul New York Times, su Washington Post, ma sui grandi giornali americani, cercate Trump e internet, ovviamente la notizia di questa cosa che ha detto all'improvviso in un comizio in South Carolina, mi pare, non ha avuto tutto lo spazio che ha avuto per esempio sui giornali italiani. Ovviamente ha detto una stupidaggine, ovviamente ha detto una cosa che non sta in piedi. Tra l'altro ha detto: chiamerò Bill Gates, come se Bill Gates fosse il custode delle chiavi, il padrone di internet. Sì, esatto. E come se gli rispondesse, soprattutto. Esatto, quindi insomma, ovviamente poi lui la cosa che voleva dire era un'altra: bisogna controllare meglio i canali di comunicazione, tra cui internet, questa modernità che viene usata dagli islamisti più radicali, cioè ha detto una cosa del genere. Quindi sostanzialmente è stata sì una gaffa, una stupidaggine, ma ha avuto molto meno impatto rispetto a quella che contemporanea di dire basta, non facciamo entrare più negli Stati Uniti immigrati di religione musulmana. Quella è stata, diciamo, la cosa che ha effettivamente, certo, colpito e cambiato anche un po' il dibattito politico americano. Christian, qua ovviamente Donald Trump piace molto, piace nel senso che è tanta roba, come si dice in questi casi, da raccontare sui media. Tutti dicono che però prima o poi si sgonfia, e tutti dicono meno male perché sarebbe pericolosissimo. Ci spieghi perché è così forte politicamente oggi e se è vero che prima o poi però si sgonfia? Allora, la cosa è questa, in questo momento al di là dei social network, al di là di noi giornalisti che riempiamo le pagine di giornali, eccetera, gli americani, gli elettori americani non guardano che cosa succede a un anno dal voto presidenziale, che sarà a novembre del 2016, a febbraio comincerà il lungo processo delle primarie, ma adesso ancora gli americani non guardano, quindi se vai a guardare davvero i sondaggi che lo danno in grande vantaggio, in realtà è più che altro il fatto che lui è conosciuto e gli altri no. La gran parte degli elettori americani non conosce nemmeno, non è neanche in questo momento attenta a conoscere chi sono gli altri candidati repubblicani, Marco Rubio, Ted Cruz, tutti gli altri, sono conosciuti nel mondo politico, nel mondo giornalistico, nel mondo di chi segue queste cose, ma non dal cittadino comune, il quale fino a quando non si vota effettivamente nel loro stato, quindi non so, un elettore della California comincerà a occuparsi, ma vediamo che cosa hanno da dire i candidati fra 6 mesi, fra 7 mesi. Quindi in questo momento l'unico davvero conosciuto è Trump, perché è un personaggio da reality show, insomma è Trump, e quindi tutti lo conoscono, e ovviamente lui ha un maggiore risultato nei sondaggi. Ma voi sapete, in questo periodo, dicembre del 2012, quindi di 4 anni fa, di 3 anni fa, scusate, il candidato repubblicano in vantaggio era Gingrich, che aveva 12 punti percentuali. Carnea, di chi era costui? Infatti, vi ricordate invece che ha vinto Romney? 8 anni fa, c'erano sia le primarie repubblicane che quelle democratiche, il vantaggio era di Rudy Giuliani, e il vantaggio per i repubblicani, per i democratici era Hillary Clinton, di nuovo i due più famosi e più conosciuti in giro per il mondo, poi in giro per gli Stati Uniti, come sapete, poi invece sono stati Obama e McCain. 12 anni fa il candidato repubblicano in vantaggio, che sembrava assolutamente instoppabile, era Howard Dean, e invece quello che poi effettivamente ha vinto le primarie, John Kerry, era tipo ultimo. Quindi insomma, stiamo calmi, stiamo tranquilli, io credo che lui stia calmo, stai sereno, sì, stai sereno Trump, quindi non vincerà. Allora, io dico, e l'abbiamo anche scritto in questo numero di Hill, che Trump non diventerà mai presidente degli Stati Uniti a meno che gli americani non impazziscano. Questo segnatevelo, così poi mi chiamate voi a un certo punto quando lui farà il giuramento alla Casa Bianca. Però io sono addirittura convinto che non vincerà neanche le primarie, e non vincerà probabilmente neanche, se il primo voto a febbraio in Iowa, e quando ci saranno i caucus, secondo me arriverà secondo, terzo, forse addirittura c'è chi dice che arriverà quarto. Aia. E probabilmente vincerà Ted Cruz. Insomma, ancora è molto molto presto, lui adesso è avanti perché fa parlare di sé, tutti lo conoscono, i giornali e le televisioni gli vanno dietro e si parla di lui. Si parla di lui tanto sui social network, c'è questo pezzo molto carino oggi che è apparso sul New Yorker in rete, The Man the Meme, cioè l'uomo, il fenomeno di internet, effettivamente lui è quello che trascina in gran parte le polemiche, le notizie sui social network. Ma immagino, sì, immagino Christian, però, che in America in questi giorni tu sei lì, si stia parlando solo della Leopolda, cioè ovvio, no? Sono cioè, credo che sia. Ecco. Qualcuno è andato della papessa, della Etruria moltissimo. Etruria sì, è sì, una cosa che proprio la papessa non è andata, non è andata la Leopolda, ha detto su Facebook che, appunto, sì, però sono cose private della papessa, non facciamo pubblicità. Ma tu volevi mandare, quindi? No, volevo far sentire un pezzettino di Renzi. Ce l'abbiamo un Renzi, eccolo. Vai. Qua ho pensato spesso a quello che avrei detto per giustificare certe scelte di fronte al popolo della Leopolda, perché per me è un po' come tornare a casa. Io so perfettamente che se non ci fosse stata la Leopolda io non sarei a Palazzo Chigi, ma so anche allo stesso modo che la Leopolda non è un'esperienza del passato, non è un ricordino. O riesci ad animare quello che vogliamo fare per il futuro, oppure non serviamo a niente. Noi non siamo una rimpatriata di Renzi, noi siamo delle persone che hanno voglia di cambiare l'Italia. Cristian, niente, c'era Daniele Bellasio che ti voleva a tutti i costi stuzzicare sulla Leopolda. Ma no, ti ho detto, falla tu, falla tu. Cioè? E non so, che, vai, vai, Marta. No, no, semplicemente appunto... C'hai il sorriso malizioso. No, il sorriso malizioso. Con parole vostre, dai. Allora, sta Leopoldo Aquino ha un sapore diverso se tu stai al governo, no? E poi sono successe delle cose... Perché lui è al governo grazie alla Leopolda, grazie, detto. Ho capito, però non lo so, è proprio tutto come le altre Leopolde, o c'è un po' meno di leopoldismo nel Renzi di questi giorni, un po' più dello statista post-democristiano? Statista, la tocca poi. Piano. Secondo me la Leopolda, quella un po' più ambigua o imbarazzante, a seconda di come lo vuoi definire, e non è questa qui, è quella dell'anno scorso, perché già l'anno scorso era al governo ed era appena arrivata al governo, no? Adesso tutto sommato mi sembra, dopo una fase dove lui ha fatto, il suo governo ha fatto fare alcune cose giusto o sbagliate, non sto a dire questo, e sembra che ci sia, diciamo, un po' un appiattimento sull'essere uomo di governo, essere uomo di establishment. Secondo me in questo caso gli è servito, gli servirà, adesso non so bene, non l'ho seguita, io qui sto a seguire Trump e non la Leopolda, probabilmente gli può servire per dare uno slancio maggiore. Quella un po' che stonava semmai era quella dell'anno scorso. Lettura credo. Interessante. Beh, straordinario. Allora, ma Christian, il prossimo numero di Il, sai, che esce il 18, sono preparato. E parla di venerdì. Roma. Parla di Roma. Roma. Com'è? Cos'è? Pensavo che dice? Ci fosse che Roma... in copertina Vimercate, invece c'è Roma, no, ma spiega. Sta lavorando per il numero doppio di luglio e agosto. Sì, sì, con la, sulla Brianza. Tutti i vimercatesi famosi. Nel mondo. Sì. Allora, esce quando, guarda, Christian? Abbiamo voluto raccontare quello che non si racconta di Roma. Roma è travolta dagli scandali, da tutte le cose che sappiamo. Non se la passa benissimo. Io un po'... Come? Non se la passa benissimo proprio in questo periodo, no? Non se la passa bene, tutte le scandali, non c'è il sindaco, tutte le cose che sappiamo. Però... Però, veloce, che abbiamo il traffico, mi uccide Marta. No, non c'è il traffico, la pausa. Gli piace il traffico. Ah, vai! Vabbè. No, Christian. Però abbiamo fatto una guida a tutte le cose cool della città di Roma, e quindi una specie di orgoglio Roma che spero piaccia ai lettori anche non solo di Roma. Non per la squadra di calcio, per la città. Non parliamo di calcio. Esatto. Vabbè, Christian, no, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio, salutaci, grazie, New York. Ciao. Grazie, noi ci ritroviamo tra pochissimo. YouTube. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. Sì, ho tipo 15 anni quando partono gli One Direction. Generazione Z sei diventata. Sì, ma mi divertono tanto gli One Direction. Sono Sai bravi, che gli One Direction sono i dominatori del 2015 di Twitter nel mondo. Cioè, i più twittati, più condivisi, niente, dominano Twitter nel mondo. Ma vendono anche tanti dischi? Eh beh, sì, sono bravi. Uno ha lasciato sono la band, quindi that. Non si sa. I nuovi Take That. Ma io quando parlo di musica si capisce. I nuovi Take That. Sono rimasto a Gaberi. Sì. Dici poco. Beh, dici poco, appunto. Allora, parliamo del di questo nostro, 2015. L'abbiamo detto spesso, il nostro social network preferito. Si può dire? Amo a pane Twitter, tanto lo si sa che siamo di parte perché Cagnola. Lo usiamo tantissimo. Et di Bellasio, hashtag RadioTube, hashtag ISDV, viviamo su Twitter. 2015 sì. È già tempo di bilancio. Perché insomma è solo il 12 dicembre, però è già il momento di tirare le somme di come è andato l'anno, e secondo me come è andato il 2015 su Twitter la dice lunga di quello che ha rappresentato l'interesse non solo degli utenti di Twitter ma un po' di tutti. tutti e io vorrei parlarne con un ospite che io sono molto contenta di ritrovare di sabato, Antonella Di Lazzaro, che ha come account di Twitter @Antonella e quindi avendo solo il nome di battesimo come account di Twitter si vede che è importantissima. È importante molto. Now proudly leading Twitter Italy Media, cioè ora dirige con orgoglio Twitter Italy Media. Ciao Antonella, buonasera Antonella Di Lazzaro. Ciao Marta, ciao Daniele, buonasera a tutti gli ascoltatori. Che ciao. Meraviglia, allora One Direction a parte, perché quelli è ovvio, sai, poi sui social network, cioè i ragazzi quando si inventano gli hashtag, quegli hashtag lunghissimi, I want Zion to come to Italy now forever, così mi fanno, e vanno subito in cima alle classifiche. Antonella, gli argomenti più twittati danno uno spaccato di quella che è stata la realtà di un anno, cosa ne pensi? Sì, assolutamente. Il 2015 possiamo definirlo come un anno di cambiamento e aggregazione su Twitter. Cambiamento, beh, sia a livello internazionale, uno dei personaggi che siamo riusciti a portare su Twitter è il presidente degli Stati Uniti, il cui nome utente è POTUS, e che purtroppo arriva quarto proprio dopo gli One Direction tra gli argomenti più twittati. Cambiamento perché l'anno in Italia è iniziato con l'elezione del presidente Mattarella, che si sono molto commentate su Twitter, e ovviamente con l'apertura di Expo. Aggregazione perché abbiamo anche vissuto tragici fatti, da partire da Charlie Hebdo, finendo per i tragici attacchi di Parigi qualche settimana fa, che hanno fatto parlare moltissimo su Twitter le persone, hanno fatto parlare e grazie a Dio hanno anche aggregato. Penso all'hashtag Portuber, che ha consentito ai parigini che potevano e volevano dare asilo e appoggio alle persone che erano per strada di invitarle, ma anche Age sui Charlie, sui Bardot, e quindi tutti gli hashtag dedicati agli attacchi tragici che sono successi nel mondo. Quindi sostanzialmente molti cambiamenti e molta aggregazione. Aggregazione è stata anche negli Stati Uniti l'esultanza per la possibilità per persone dello stesso tempo finalmente di unirsi in matrimonio. Anche il presidente Obama ha twittato con Low Winds. E un altro hashtag molto importante è stato Black Lives Matter, partito dalle proteste di Baltimora, ma diventato un vero e proprio hashtag di solidarietà e diciamo di rivendicazione di diritti civili. Da ultimo un esempio che poi è stato molto trattato anche sulla nostra app Periscope, che invece è l'hashtag dedicato ai rifugiati, a tutti i rifugiati che sono dovuti scappare dalle guerre in corso nel Mediterraneo. Antonella, gli hashtag italiani che hanno dominato, gli argomenti che hanno dominato l'Italia, sia gli account Expo 2015 Milano e Ask Expo, per quanto riguarda lo sport, bellissimo, un momento degli US Open, Pennetta Vinci, l'hashtag Roma sono io, che era l'iniziativa di Alessandro Gassman, Ripuliamo Roma, sì. Save Rummo, la campagna per il pastificio Rummo, che era stato danneggiato nell'alluvione dell'ottobre 2015, però vorrei parlare anche di questo hashtag Messina senza acqua. Il problema, guarda, qui credo sia anche di comunicazione, perché io l'ho saputo ieri dai social, l'ho saputo dai social. Allora, visto che queste cose ormai la stampa nazionale non se ne occupa, adesso non voglio fare il meridionale vittimista che parla sempre, che dice che al sud è così, ma è la verità, è la verità. Perché se fosse stata Roma senza acqua o qualsiasi altra città, insomma, sarebbe stata ad esempio una prima. E qui si intrecciano più aspetti, cioè Fiorello che viene a sapere dai social network del problema dell'acqua a Messina, Fiorello che rilancia attraverso un social network il problema dell'acqua a Messina, e Fiorello che utilizza come nessun altro in Italia, a parte l'amico Giulio Base che salutiamo, come nessun altro in Italia, l'app di Periscope, che a sua volta è stata la sorellina di Twitter. La sorella di Twitter, che però per Apple è l'app dell'anno. Non c'è dubbio. Beh, insomma, è un cortocircuito virtuoso. Antonella. Sì. Assolutamente, tra l'altro quest'hashtag mi è molto caro, perché da quando esiste Periscope io mi sveglio tutte le mattine non più con la sveglia, ma con il rumore, il suono, la suoneria di Periscope che mi annuncia i live di Fiorello. Anch'io! Che siano dal cucino, che siano dalle edicole, che siano cucino. Dalla strada. Con questa voce incredibile. Con Fiorello. E quella mattina, infatti, sono svegliata con Fiorello come tutte le mattine ed ero collegata, e in effetti è stato molto forte quello che ha fatto. C'erano colleghi americani che twittavano, che mandavano messaggi, perché Periscope, si sa, è un'app che consente di fare streaming in tempo reale ma anche di ricevere i commenti di chi ti sta seguendo. Quindi c'erano colleghi americani che mandavano baci e emoji a Fiorello. Io gli ho detto: no ragazzi, fermiamoci, questa è una cosa molto seria. Ed è stata talmente seria che nel giro di neanche un'ora era diventato un hashtag che in trending topic su Twitter, e poi di conseguenza è diventato qualcosa che ha fatto sì che il problema fosse sulle prime pagine dei giornali. E grazie a Periscope, il primo appello di Fiorello rispetto a questa cosa a creare quindi un hashtag, un movimento, è avvenuto proprio su Periscope, che è, come dite, la sorellina di Twitter, che non ha neanche un anno, perché di fatto l'abbiamo lanciata a fine marzo del 2015, quindi è una sorellina molto giovane ma molto molto promettente. Allora, Daniele, puoi continuare tu per cortesia, che io sto cercando di aprire Periscope per fare un Periscope. Però allora, fallo tu una volta, non che ero, lo faccio sempre io. Allora, non ero loggata, sì, perché avevo prestato il telefonino a Anastasia per fare un Periscope. No, non ci posso credere. È vero, perché lei non riusciva ad accedere dal suo al quindi wifi. Quindi la password di Anastasia? No, l'ho fatta loggare, l'ho fatta sloggare, e quindi adesso devo rientrare come Marta. Vai Daniele, che apro Periscope. Faccio. Ma Antonella, io volevo parlare un po' anche allora, secondo me Twitter ha delle potenzialità enormi, intanto perché la gente usa internet sempre di più in mobilità, e Twitter è forse l'app che si presta di più come social network in mobilità. Periscope non ne parliamo, potenzialmente è rivoluzionaria per il mondo della televisione, però quest'anno per Twitter è stato anche un anno delicato, c'è stato un cambio al vertice massimo internazionale, e quindi ti chiederei, secondo te, qual è il futuro, lo sviluppo che ci sorprenderà di più di Twitter in futuro? Intanto Marta sta facendo qualunque cosa. Sì, chi è collegato su Periscope intanto vede Paolo in regia, c'è Christian che è là in fondo, che brava. Eccoli qua, e c'è Daniele, ecco Antonella, ho distratto Daniele, scusami. Mannaggia, a me hanno detto di togliere le cuffiette, quindi non posso vederti in questo momento, Marta, mi collego dopo. Sì, perché ho messo il salvataggio automatico, sì, così, esatto, poi si possono rivedere, io sono qua. Te lo non puoi mi anche vedo, scaricare sul telefonino, te lo tieni. Sul telefonino di Anastasia, certo, peraltro, certo, finirà, eccomi qua, ecco io sono. Vai Antonella. Allora, tornando alla domanda, ci saranno molti sviluppi che ci sorprenderanno. Ovviamente qualcosa la posso anticipare, ma molte cose saranno delle piacevoli sorprese, e insomma che arriveranno a breve, molto a breve. Allora, partendo da Periscope, che è un po' l'ultimo argomento che abbiamo trattato, sicuramente Periscope sarà molto più integrato all'interno dell'app Twitter, quindi questo darà tantissime possibilità in più di scoprire, di vedere gli streaming che stanno accadendo nel mondo. Poi in generale quello che Twitter sta facendo è cercare di rendere sempre più facile la scoperta degli argomenti di conversazione, quindi a livello di come si scoprono gli argomenti e di come si fruiscono i contenuti su Twitter, abbiamo lanciato Moments 2 mesi fa negli Stati Uniti, che nient'altro è che delle collezioni di storie, di tweet che già esistono, ma semplicemente riuniti sotto uno stesso indice, in modo che se qualcuno è interessato all'ultima uscita del disco di Rihanna, o a un dibattito presidenziale, o a un argomento di attualità che sta accadendo, può trovare tutti i tweet relativi sotto uno stesso tab, e questo Moments arriverà presto anche in Italia. Quindi scoperta dei contenuti e possibilità di contribuire sempre più alle conversazioni in tempo reale, che poi è la grande forza di Twitter, in maniera sempre più semplice, quindi anche la semplificazione dell'accesso alla nostra piattaforma e la semplificazione della scoperta di utenti che hanno passioni simili alle nostre. Quindi sarà sempre più semplice dire che tipo di passioni abbiamo, che argomenti vogliamo vedere, che contenuti consumare, e soprattutto scoprire utenti che hanno le stesse passioni per poter parlare con loro, non solamente con i grandi della politica, della musica, della televisione, eccetera eccetera. Ottimo, beh, straordinario, sono molto molto contenta, tanto io sono ancora qua con sì, infatti con hai con lasciato Periscope. Quel secondo di sì, silenzio, ma no, perché per in realtà stavo sì, infatti per me no, perché stavo leggendo anche qua gli appunti. Sì, anche quante stavo cose leggendo, devi fare. Sì, ho una mano Periscope, una mano gli appunti, una mano gli occhiali, anzi qua rimettiamoci gli occhiali, quelle perché non ci vedo. Sono le 17:46 sì, secondi, è il momento quindi del dobbiamo traffico. Salutare, noi ringraziamo Antonella. Molto Antonella Di Lazzaro, e noi siamo team Twitter, si sa. Sì, siamo team Twitter, lo possiamo dire. Grazie Antonella per essere stata con noi. Grazie a voi. A presto, ti aspettiamo in studio. Ciao. Grazie, ciao. Noi adesso dobbiamo dare la linea al traffico e ci risentiamo tra poco, tra pochissimo. Stazione di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Radio Tube. C'era Daniele che si lamentava, diceva sì, che faccio troppa confusione, che posso condurre solo con Cruciani. No, allora, ma lo dicevo nel senso che tu mi stai facendo Parenzo. No. Allora, da tempo, tu sai che nell'ultima puntata mi hai fatto il corso di gesti che si fanno alla regia per chiudere. Potevamo farli su Periscope adesso prima. Che non abbiamo fatto, perché alcuni non si possono fare. Adesso questa puntata mi hai fatto il corso di come riempire quei silenzi inaspettati. Vabbè, ma che era ogni mezzo tanto secondo. Si creano se l'altra conduttrice fa altro. Vabbè, ma era mezzo secondo. Secondo, non mi sono mica bravo come Cruciani, perché ho due mani sole, una avevo il telefonino, una al tablet, l'altra mano. Vabbè, meno male che in regia ci sono bravissimi, perché sennò dunque. E ma meno adesso, male, e meno che male che Natale, siamo tutti, siamo pronti per festeggiare. Buoni. Ho visto che un tempo sciavi, ti seguo sui social. Vabbè. Sì, ho postato una mia foto di quando ancora sciavo, perché questa settimana sono stata in montagna, ma non c'era neve, quindi non avevi tipo due anni. No, cioè, l'ho messa su Instagram. A proposito di social, questa volta questo è l'altro. Instagram? Ne avrò avuti 5 in quella foto lì, 15 anni fa. Allora, esatto. Gli spot natalizi. Natale, siamo Natale. Tutti più buoni. L'altra settimana vi abbiamo fatto vedere lo spot del vecchiettino che si inventava il suo funerale per far venire finalmente tutti a casa con lui. Questa settimana invece Lo spot è muto, però ha una musica molto molto molto carina. E c'è sempre un vecchiettino. Ascoltiamola, eccola qua. Famiglia riunita intorno all'albero di Natale. Si scambiano i regali. Tutti si scambiano i regali, ma solo il nonno. Cravatta, la cintura, solite cose. Il nonno. Classica cosa. Annoiato sul divano. No, annoiato, quasi disperato, solo, abbandonato, dimenticato. Solo, che non proprio. A un certo punto. Io mi metto qui. Però, sì, tutti gli altri si fanno le foto. Lui lì da solo. A un certo punto, credo sia il nipote, potrebbe essere il nipote. Beh, anche il figlio. Lo chiama. Sì. E gli dà una busta. Sta con un regalo. Con questa musica di sottofondo. Muovere con le lacrime. Sa cosa c'è nel regalo? No, aspetta, ridiscrivilo. Facciamo, mostriamo. Allora, il regalo. Attento ai gesti. Siamo alla radio, ma io sono il regalo. Attento ai gesti. Un quadrato. No, è un quadrato. È un quadrato. È una busta. Una busta quadrata. Sì, tu pensi un bigliettino e c'è una frase che l'ha commosso perché lui è in lacrime. Oppure cosa potrebbe essere un CD del volo? Il volo. Lo diciamo cos'è? È una carta regalo di un sito. Di iTunes sarà tipo una carta regalo per vedere il calcio. È la carta regalo di Pornhub. Di Pornhub. Di Pornhub. Che cos'è Pornhub? È un sito in cui ci sono i film zozzini. Ecco. E quindi il nonno riceve. Una volta che mi ascolta in diretta mio figlio, devi parlare di queste cose. Ma no, ci sono dei film. Il nonno è contento di poterli vedere. Pornhub, lui si rianima improvvisamente, felicissimo. Si abbraccia. La cosa bella è che la regia mostra che si tratta di Pornhub proprio nell'ultima immagine. E la cosa però più carina è che questo video su YouTube, che ha 4.800.000 visualizzazioni, è corredato dalla sigla SFW, che significa Safe for Work, cioè lo potete guardare senza problemi anche alla scrivania del lavoro, perché di solito l'hashtag è NSFW, not safe for work, cioè non aprite questo video di fronte ai colleghi, perché io sono com'è una ragazza che si informa. Adesso lo diciamo, perché io sono una ragazza che si informa, perché io voglio essere preparata. E invece, a proposito di film da vedere, di film da vedere, sì. Ecco. C'è il nuovo video appena sfornato dai miei miti The Jackal, che ormai sono, chi ascolta Radio Tube li conosce perché ne parliamo tantissimo, poi ormai sono diventati super famosi, i loro video in rete fanno veramente di grandissimo. E c'è qualcosa che assimila questo video che stai per mostrare al precedente. Così, vabbè, guardiamo il video che hanno appena postato i The Jackal. Ciro, stasera ti va di passare da me, guardiamo un film con Rocco Siffredi. Sì. Ok, allora stasera. Vabbè, contento, guardiamo un film con Rocco Siffredi. Cioè, con Rocco Siffredi fisicamente lì. Sì, stanno guardando qui con Rocco Siffredi sul divano. Tra l'altro lui recita in un modo imbarazzante. Comunque, no, vabbè. Dai, ma no, ma no, dai, lì piange prendendo i Kleenex, è molto contento, non è fidanzato. Abituato. Lui è abituato a, diciamo, a film più di azione. Questo era un film drammatico. Quindi... Bella questa, ti è venuta bene. Non era preparata, perché non era preparata per competenza. Ma... Ti vedo pronto. Comunque vedo pronto. Era proprio la punta, sì, che non doveva ascoltare l'altro Rocco. Però comunque. No, ma tanto sai che, cose che sotto le feste si fanno i giochi. Voglio parlare di questo video. Sì, lo so, però... che forse non abbiamo più tempo. No, ci sfumano. Come però... il segno di sfumare? Così. No, non è sa, quello, non così, è quello. Sì, con okay. la mano sotto il mento. Abbiamo ancora 1 minuto e 40. Allora, c'è un video che viene visto tantissimo, che fa molto ridere, anche se è un po' stupido. È di un gioco. Non ho capito se è un gioco vero, spero che sia falso. Tu lo sai? Non lo so. Allora, mostriamo? Mostriamo un pezzettino di audio. Christian dice che il gioco è vero. Ma il gioco consiste nel fatto, è una specie di roulette russa, però tu ti passi questo oggetto, no? L'oggetto è come una mano che viene su e che ti tira in faccia un po' di torta. E dopo la gente ride. E a te piace molto. È una stupidaggine. Ecco, cosa ti devo però, regalare, diciamo, non sapevo. Fai cosa Monopoli, c'è chi gioca a Monopoli, c'è chi gioca a quello, come si chiama, il mercante in fiera. Sì, io gioco a scala 40 quorum, con i miei nipoti. Scopone scientifico, oppure torta in faccia, la gente okay, ride. Ho trovato simpatico. Il regalo di la Natale. La prossima per puntata, Daniele, il 20, faremo un Periscope. La prossima puntata sarà il 20. Quant'è? Il 19. Il 19 o 18. Faremo adesso troveremo il 19. Faremo il gioco delle torte in faccia. Non dirlo, non provocarmi dai, mai. Dai, non provocarmi perché lo sarebbe faccio. Sarebbe stupendo con Periscope. Non gioca anche Cristian Goldoni. E invitiamo anche Paolo Corleoni, che è stato con noi in regia e ci ha fatto. Se altri di Radio 24 vogliono venire, facciamo questo mega gioco natalizio. Torte in faccia, messi tutti, dalla direzione in giù. Fantastico. Vai. Allora, come vuole il tempo quando si diverte, abbiamo proprio chiuso con il nostro Radio YouTube con tutto il sabato il villaggio. Il prossimo è il 19, quindi sarà vicinissimo Natale e vi faremo gli auguri, ma prossimo sabato. Ciao!